Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21 e 4 minuti, bentrovati. Oggi martedì 10 aprile 2012. Sergio Bortolami che vi sta parlando. Dall'altra parte del vetro, insieme agli ospiti di questa sera in Blu Radio Sera, la voce di Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Sergio, buonasera ai nostri ascoltatori. Maurizio, in tanti anni di live su Blu Radio Veneto abbiamo visto gruppi pop, gruppi rock, elettronici, ma anche tanti cantautori, come l'esempio di questa sera. Esattamente. Questa sera con noi la voce e la musica di Gianluigi Ago, dalla Spezia, mi pare che dicessi. Mamma mia, quanta strada. Tanta strada, io Gianluigi. Sì, tutto bene, grazie e buonasera a tutti. Buonasera. Maurizio, a te. Sì, Gianluigi è accompagnato da Claudia Bellucci. Ciao a tutti. Che è la tastierista e la conduttrice del progetto. Posso dire così, Gianluigi? No, certo. E come nate, come nasce, Gianluigi, questo progetto? Con allora, il tempo, è un progetto che nasce col tempo, nel senso che io ho sempre suonato, però comincio ora a fare canzoni, in un certo senso. Cioè, l'ho sempre fatte, ma non l'ho mai... E diciamo, non è mai incise, non è mai incise per un semplice motivo, perché io più che altro nasco come studioso, una parola grossa, però come diciamo appassionato della canzone d'autore, quindi ho sempre seguito, facevo trasmissioni radiofoniche anch'io, ma negli è anni, un nostro collega praticamente negli anni 80, sì. Anch'io, un po' anch'io negli anni collega 80. Pentito no, ecco, no, scherzo, assolutamente scherzo. No, allora facevo appunto programmi radiofonici, ho fatto scritti su appunto sulla canzone d'autore, ho addirittura fatto una lezione spettacolo su Gaber e Luporini, che ho avuto piacere di conoscere entrambi, quindi cioè spiegando, quindi un po' di deformazione professionale di insegnante, di divulgare la canzone d'autore di cui sono appassionato da sempre. E quindi è stato quasi inevitabile che poi cercassi di esprimermi anch'io attraverso quella forma che io amo, che io seguo, diciamo. Sì, verso le barricate del futuro è il titolo dell'album. Sì, cioè praticamente è l'arrivo del progetto che... vanta parecchio tempo. Sì, un po' esemplifica un po' tutto, nel senso che io chiaramente ho vissuto anni passati, no? Anni particolari, e questo verso le barricate del futuro vuol dire che poi la canzone, quando la sentirete, lo capirete meglio, e sta a rappresentare la speranza che ho che anche che quelle cose che abbiamo fatto, per cui abbiamo lottato, i nostri sogni, le nostre speranze di anni fa, e lasciano in ogni caso qualche segno anche nelle lotte del futuro, nei momenti di difficoltà del futuro, appunto, che rappresentano queste barricate. Certo, ho capito. Quindi progetto canzone, perché la canzone è al centro di tutto il tuo universo. Sì, la canzone, sì, soprattutto la canzone d'autore, a parte che io sono appassionato anche di altri generi, adoro Springsteen, ho adorato gruppi come Joy Division, gli Smiths. Interessante, cioè, quindi non è che molto sono, interessante ciò di Joy Division. Non è che, cioè, a volte uno sembra strano che abbini, non so, De André a Springsteen, che sembrano mondi lontani, però io ci trovo anche, come Gaber e Springsteen, trovo dei punti di contatto, anche se può sembrare strano. In entrambi i casi erano e sono cantastorie. Cantastorie, persone che hanno contatto brani dal vivo, per esempio, anche col pubblico, quindi una cosa molto importante. Cantano un po' entrambi e le contraddizioni del loro tempo, quindi ci sono dei punti di contatto. E cantare dal vivo, fare gli spettacoli dal vivo, è un altro tuo punto di forza, secondo me. È il momento più bello, ma io penso che sia così per qualsiasi artista, cioè il contatto col pubblico, sentire la canzone è tutta un'altra cosa dal farlo, diciamo, in studio, dal mettersi lì, magari sbagliare, ripetere. Il contatto, il primo contatto innanzitutto diretto, e che ha un ritorno, soprattutto se si riesce con la musica a dare qualche emozione o qualche riflessione alle persone che ti stanno ascoltando. Tu hai dato emozione anche con la poesia, perché sei autore di poesie. Ho scritto poesie, ho scritto monologhi anche per spettacoli di altri autori come Giulio D'Agnello, come Massimo Blacco, altri cantautori toscani. Ho scritto dei monologhi che andavano, diciamo, poi loro a recitare all'interno di spettacoli che erano un po' di teatro canzone, diciamo, cioè parti e suonate, cantate e parti recitate. Bello, una cosa. A me viene in mente una cosa, ti spiego Gianluigi. Molti anni fa, gli anni 60, c'era un personaggio che era Gian Pieretti, famoso, che ha scritto Pietre, ma non ha solo scritto Pietre, ha scritto cose molto interessanti. Il vento dell'est. E il vento dell'est, che era un pezzo che aveva fatto Celeste, aveva fatto Celeste, la traduzione di Atlantis di Donovan. E lui aveva fatto un reading presentando Ferlinghetti. Poeti americani. Ecco, mi viene in mente su questo il reading, cioè la poesia, su questo parallelismo con te, perché tu parli di poeti, hai parlato di un poeta come Gaber, certo. Un poeta in assoluto. Insomma. Sì, perché il teatro canzone, che poi diciamo in Italia viene proprio a identificarsi con il teatro canzone di Gabriele Luporini. Sì, lui è partito da Torpedo Blu. È partito da Torpedo Blu, poi ha avuto una grande, diciamo, crisi esistenziale, perché lui ha avuto il coraggio a soli 30 anni di mollare il successo. Lui era il presentatore della prima serata di una delle due reti, era c'era soltanto due reti, aveva successo di tutti i tipi, era simpatico, piaceva al pubblico, ha mollato tutto per buttarsi, un'impresa coraggiosa, per buttarsi nel teatro senza sapere di, se poi avrebbe avuto un riscontro. Questa è stata un'azione importante e ha cominciato, mi ricordo, perché io vidi ancora bimbo, si può dire, negli anni, alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, i primi spettacoli di Gabriele. Cominciava facendo una canzone e un monologo, ma erano ancora isolati. Poi pian piano monologo e canzone sono andati a fondersi insieme e a, diciamo, tessere un unico canovaccio, un unico percorso per ogni tipo di spettacolo. Qualcuno ha scritto che è diventato in qualche momento il Savonarola di certi tempi. Cosa dici? Eh sì, le sue invettive sono state pari a certe invettive di Dante o di Pasolini, senza adesso fare paragoni eccessivi, ma voglio dire come tipo di invettiva, e addirittura anche contro quelli che in teoria potevano essere il target, cioè il suo pubblico. E infatti Gaber non era uno che, soprattutto in tempi politici, veniva lì e diceva il popolo vincerà, cose demagogiche, anzi girava il dito nella piaga delle nostre contraddizioni. Certo. E questo faceva male, ma ti faceva anche poi uscire dal teatro pensando e riflettendo su di noi come generazione. E usava anche lo shampoo per far questo. E usava anche lo shampoo, usava tante altre cose. Il clou di questa critica penso che sia, mi pare, uno dei suoi ultimi lavori, La mia generazione ha perso. Certo. È già lì, già il titolo dice è già lì un bilancio abbastanza amaro. certo. Allora Gianluigi, come nostra tradizione, apriamo la finestra, presentiamo un primo pezzo da disco che abbiamo scelto. Benissimo. Che traccia abbiamo scelto, Sergio, ti ricordi? La traccia numero 6, che si intitola Chi ha compagni non muore mai. La sentiamo e poi ne parliamo, ok? Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. La nave dei folli continua a viaggiare, per uno che scende, un altro che sale, tra porti di nebbie e scali lontani, tra lampi di sogni e pugni serrati. Un'altra canzone, cristalli di sale, un altro compagno perduto nel mare, tramoli di angoscia sferzati dal tempo, c'è un canto feroce, non si è ancora spento. Ehi va, tu lo sai, la nave dei folli non si ferma mai, e non c'è tempesta che ci abbatterà, perché chi ha compagni non morirà, perché chi ha compagni non morirà. Seguiamola bene, la rotta tracciata, la polvere rossa che segna la strada dei giorni di lotta della nostra storia. Non c'è mai futuro se non c'è memoria. La nave dei folli che va incontro al sole è come il presagio di un'altra canzone ancora non scritta che aspetta una voce, il primo respiro di un mondo migliore. Ivan, tu lo sai, la nave dei folli non si ferma mai e non c'è tempesta che ci travolgerà, perché chi accompagni non morirà, perché chi accompagni non morirà. Sai, chi accompagni non muore mai. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera in compagnia di Gianluigi Ago su Blu Radio Veneto. Maurizio, parliamo di questo pezzo. Intanto c'è un omaggio, non velato, un omaggio vero e proprio a Ivan, Ivan Della Mea. Sì, una canzone che ho scritto subito dopo la morte di Ivan Della Mea, di qualche anno fa. E perché Ivan Della Mea ha rappresentato, per chi ha vissuto certi anni come me, ha rappresentato il cantore, diciamo. Il cantore contro. Il cantore contro, e quindi mi è sembrato inevitabile fare questa canzone che riprende poi una frase di una sua versione dell'Internazionale con un testo di Fortini che diceva appunto che accompagni non morirà. E io ho ripreso questa frase diciamo mettendola come titolo e citando anche alcune qua e là qualche citazione di frasi sue, e ho fatto appunto questa canzone perché mi sembrava un doveroso omaggio a una persona che ci ha accompagnato attraverso tanti momenti di lotta, di crisi, e quindi mi sembrava una cosa normale fare un omaggio. Possiamo fare un legame, non so se sei d'accordo Gianluigi. Ivan Della Mea era un cantautore che non ha mai avuto troppo spazio, perché forse gli spazi non li voleva, volutamente andava per la sua strada. La stessa cosa potremmo dire di Piero Ciampi, che è un altro similare personaggio fuori da ogni convenzione. Piero Ciampi lo vedo proprio come un vero bohemien, diciamo. È un vero bohemien, cioè un vero bohemien, carattere che, impossibile, carattere discograficamente impossibile, certo, da gestire. Certo, lo portavano in un posto, lui magari dopo un po' se ne andava, doveva incidere o doveva fare una non si ricordava o saliva sul palco, sì, ubriaco. Cioè, perché nada ha cercato di dargli, sì, una spinta dal punto di vista proprio di conoscenza. E quello è veramente forse quel tipo d'artista proprio che vive al di fuori, diciamo, delle costrizioni in un certo senso del mercato, delle case discografiche. Esatto. Lui scriveva come suo bisogno esistenziale, c'è nella sua musica, nelle sue canzoni, una vena di tristezza, ma anche di autobiografia di questa tristezza che emerge quasi sempre. Possiamo dire un artista maledetto alla francese, se può, esatto, dire così. Ma in quel senso lì proprio, maledetto alla francese, bohemien. E un artista, come dicevi te, fuori da ogni regola, sì, di ogni controllo, non aveva anche di ogni controllo, certo, un grande artista. Invece tu, Gianluigi, regole ce le hai, perché stasera suoni il primo pezzo. Io le regole ce l'ho, sì. Sempre tra virgolette musicalmente parlato. Certo, certo. No, ma anche allora, il primo pezzo è un pezzo che non è in questo disco, si intitola La Radura. Lo scelgo di suonarlo per primo perché è un pezzo che parla proprio dell'importanza che possono avere le canzoni per certe persone, come è stato per me nella mia vita, che tante cose magari passano, tante cose fanno del male, ma rimangono a volte delle canzoni che ti dicono, che ti fanno riflettere, che ti fanno pensare. Questa Radura rappresenta un po' il nostro spazio-tempo in cui noi ci stiamo poco, però a volte ci rimangono delle cose che ci emozionano e che ci fanno riflettere. La Radura dà l'impressione di una vista lontana. Sì, una cosa lontana, c'è uno spazio, uno spazio fra due foreste da cui si arriva, da cui sei un attimo in cui tu però puoi avere delle cose che contano, diciamo. Ok, ora la sentiamo. Quanti sogni che sono passati per questa radura, dove incespica il tempo ogni sera, si fa un po' più scura. La luna, la nostra fortuna, ma tra reti squarciate da anni di buio e rumori sono rimaste comunque impigliate le nostre canzoni, a parlare, a farci sognare. Sì, lo so, ci vorrebbe qualcosa di più che canzoni, una stella polare, una mappa, un'antica marea che ci spinga di nuovo a tentare, ma senza illusioni, senza creder davvero che si possa mangiare un'idea, un'idea. Ci vorrebbe qualcosa che ci dia ancora un senso prima di perdersi in quella foresta che vedo laggiù, un sentiero che porti a un futuro diverso. Ci ho creduto una volta e ora fingo di non crederci più, di non crederci più. Ora scende la notte e la nebbia su questa radura, la foresta di fronte si muove già verso di me, ma io ho ancora canzoni da cantare stasera, queste storie appoggiate a un tappeto di note e parole sono forse già quasi parvenza di un raggio di sole che ci viene a scaldare per poter continuare. Certo è chiaro, ci vuole qualcosa di più che canzoni, anche se tutto forse è già scritto, c'è già tutto lì, ma mi piace confondermi e perdermi tra questi suoni che una volta che t'hanno trovato non ti lasciano più, non ti lasciano più, mai più. Una frase del pezzo, questi suoni che non ti lasciano più, questa è una frase meravigliosa, perché la musica è dentro e deve essere espressa agli atti, ma è dentro, parte dal di certo, dentro, Gianluigi. Sì, sì, se non è soltanto mestiere, è qualcosa che ti prende dentro e che ti fa riflettere, ti fa ragionare e che influisce anche poi sul corso della tua vita, nel tuo diciamo porsi di fronte al mondo, di fronte alle cose, di fronte alle persone, perché entra soprattutto canzoni che hanno, che ti dicono qualcosa, che ti fanno pensare, che ti fanno riflettere. Secondo me lo scopo della canzone è sì anche quello di distrarre, di far divertire, di non far pensare, ma anche di far riflettere, è un modo culturale di farti riflettere, di far pensare sul tuo tempo, sull'individuo, su tante cose. Certamente. Che strumento usavi, Claudio, come si chiamava? Era uno shaker. Era uno shaker, perfetto. Stasera abbiamo Gianluigi Ago alla chitarra e Claudia Bellucci che suona un po' le percussioni. Sì. E le percussioni sono, diciamo, quello che suono normalmente, però quando Gianluigi mi chiede di accompagnarlo magari alle ecco, tastiere... Ecco, un pezzo, quando Gianluigi fa un pezzo, scrive un pezzo, un testo di una canzone, una musica, come viene l'arrangiamento, Gianluigi, fra te e la Claudia? Dunque, come diciamo la caratteristica della canzone d'autore, penso sia proprio quella che nasca... Cioè Max Manfredi, che è un grande cantautore, dice una frase che sembra banale ma che in realtà è molto profonda, cioè la canzone è d'autore perché l'ho fatta io. Ah, perfetto. Cioè perché ti metti lì con chitarra o pianoforte, sì, quello che è, e voce, e nasce lì. Tutta la post-produzione, l'arrangiamento viene dopo, però canzone d'autore è quella che nasce così, perché sennò si ha altri generi rispettabilissimi come il pop, che il magari pop, esatto, uno deve già rispettare un personaggio, rispettare determinate cose. Invece la canzone è quella che nasce autenticamente, che nasce perché si ha bisogno di dire qualcosa, di dirlo in un certo modo. Ecco. Io ricordo che allo Folk Studio, e partiamo di canzoni d'autore al massimo, Folk Studio c'erano quattro personaggi, c'era De Gregori, Venditti, Colteoris Campos, c'era Locascio, personaggio che molti non ricordano, che se n'è andato purtroppo anche lui. Locascio era un personaggio fondamentale per il Folk Studio. Mi diceva, forse tu lo sai, mi dicevano un gestore del Folk Studio che al Folk Studio non c'erano le cover, la gente doveva fare pezzi propri. Parli di un cantautore che io ho amato moltissimo. Io ho abitato a Roma negli anni 70 per molti anni, fino al 78, e frequentavo il Folk Studio, e Giorgio Locascio mi aveva subito colpito tanto che quando poi tornai a Spezia, la mia città, suonai le sue canzoni. E anche ultimamente io ho inciso su Facebook, così, o su YouTube si trovano tre suoi pezzi di Giorgio Locascio, perché appunto, come dicevi, è un cantautore che è stato praticamente dimenticato. Sì, dimenticato. E che invece ha cominciato appunto con De Gregori, ha anche collaborato a certe canzoni, le prime canzoni di Teodoro Campus. C'è anche lui. Teodoro Campus c'è anche lui, cioè è stato un bravissimo cantautore. A me piaceva moltissimo. Sì, non ha avuto, avuto la fortuna di avere. Forse la canzone di Giorgio Locascio era un po' più troppo difficile rispetto alle ballate del De Gregori, del Venditti Prima Maniera, soprattutto del Venditti Prima Maniera, Roma Capoccia, eccetera. Sì, Sola Rosa. Cioè, esattamente. Rosa, certo. Già De Gregori è un po' più dilaniano, quindi un po' più complesso, un po' più schematico. Sì, no. È così. Infatti mi dispiace di Giorgio Locascio, tanto è vero che ho voluto registrare questi pezzi per omaggiarlo in un certo senso. Certo, hai fatto benissimo, perché moltissimi hanno dimenticato, forse non so neppure dell'esistenza di questo personaggio, invece se uno va all'inizio della carriera dei grandi, dei Gregori e Venditti, chiaramente Giorgio è là presente. Certo. E c'è un altro, Bassignano, Ernesto Bassignano, ha fatto tanta Rai, ha fatto Ma c'è tanti personaggi che sono passati dal Folk Studio che poi magari si sono persi per strada, ma non perché si sono persi loro, perché magari non hanno avuto il successo e l'attenzione che hanno avuto altri. Esattamente. Ok, abbiamo parlato di questo pezzo, di come si evolve, come si costruisce questo pezzo, ma tu hai fatto tante cose, abbiamo parlato di Giorgio Gaber e dobbiamo parlare anche di Fabrizio De André, hai fatto un omaggio a Fabrizio De André. Salutiamo innanzitutto la signora che dà una mano nel video stasera. Silvia Bastianello. Perfetto, si chiama, Silvia Bastianello. Anche cara nostra amica, perché è qua di Padova. Benissimo, allora parliamo di questo, anche del progetto De André che tu hai fatto. Beh, De André è un progetto, cioè parlare di De André per uno che ama la canzone d'autore è il massimo. È perché, e noi, io ho fatto collaborato a due spettacoli su De André, uno che si intitola La stessa rabbia, la stessa primavera, che l'abbiamo fatto assieme suonando, anche cantando, assieme a un cantautore toscano che si chiama Massimo Blacco, e un'altra assieme a Giulio D'Agnello, che poi è quel musicista toscano che ultimamente ha inciso dei brani scritti da Luporini, quello che collaborava con Gaber. Ed era appunto basato, come dicevo prima, su una forma di teatro canzone, cioè io avevo diviso sia l'uno che l'altro spettacolo a temi, cioè non so, l'amore in De André, il potere in De André. Per ognuno di questi c'era un monologo scritto, cioè prima una spiegazione, diciamo, una lettura di come veniva affrontato questo tema, e poi un monologo inedito che parlava articolando, diciamo, questo tema, e poi c'erano le canzoni che inerenti a quel tema. Ma come riesci ad inserire le tue canzoni, le canzoni di De André e le canzoni di Gaber nell'insieme del progetto che continui a portare avanti? Beh, è sempre un progetto di canzoni d'autore. Gaber è una grande passione, perché io Gaber l'ho conosciuto, l'ho frequentato ed è stato molto utile, perché lui chiaramente era più anziano di me, e quindi io, giovane, magari anche molto dogmatico a quei tempi, e mi sembrava, a volte discutevo con lui, mi sembrava che di non capirlo, ma poi mi sono accorto che era un passo più avanti di tutti noi, e poi siamo arrivati a capire quelle cose, e quindi mi è servito molto, oltre con i suoi spettacoli, anche con la sua umanità, con i suoi discorsi, a darmi, diciamo, una formazione sia musicale ma anche umana. Per quello poi anche la mia lezione di spettacolo che ho fatto è stato un modo di omaggiarlo. De André invece, anche lui, non l'ho mai conosciuto personalmente, ma ha attraversato la mia vita, come penso quella di molti della nostra generazione, in maniera dirompente. Quindi verso le barricate del futuro, a questi input che nascono anche da queste cose. Sì, perché più o meno dentro c'è, almeno nel mio inconscio, poi non so se come sono venuti fuori elaborati, però senz'altro c'è la musica di De André, c'è la musica di Gaber, c'è anche certa, soprattutto di questi due, di De André, di Gaber, e poi anche di altri come Guccini, Fossati, De Gregori, ma dopo ne parliamo anche di Lolli, l'ho lasciato a parte volutamente. Continuiamo la scaletta. Che pezzo abbiamo scelto adesso, Sergio? La traccia numero 5, canzone per Stefano Cucchi. Ne parliamo dopo, ok? Intanto la sentiamo. Blu Radio Sera. Mi avevano detto è soltanto un controllo, perché mai dovrei aver paura. Mi avevano detto è soltanto un controllo, perché mai dovrei aver paura. È vero, fumavo ogni tanto qualcosa che mi rilassava un poco l'anima. Ma una scelta è una scelta, magari sbagliata, e non te ne rendi mai conto. E poi scivoli e cadi come fosse bagnata, proprio mentre sei lì, lì per la strada, a guardare le facce e gli occhi e i colori nelle loro espressioni, a cercare i sapori. Ma anche i cieli migliori partoriscono tempeste, e poi un vento di urla e nuvole. Avevano detto è soltanto un controllo, perché mai dovrei aver paura. Due divise per fulmini e per pioggia follia, la mia vita non sarebbe più stata la mia. Chi l'avrebbe mai detto? Due manette e una cella, proprio a me che la vita pareva anche bella. Da una gabbia all'inferno, trascinato di peso, aggrappato a un'angoscia dipinta sul viso. E giubbotte era tardi, e giubbotte era freddo, dal potere del forte trascinato all'inferno. E in quell'albergo degli ultimi conobbi un anziano, con tre rughe sul viso e un dolore per mano. E capii dai suoi occhi che non era finita la mia voglia diversa, andava punita. E giubbotte era tardi, e giubbotte era freddo, e quei lividi ormai deformavano il tempo, finì tutto in un valzer, in un valzer di posti banali, tra dottori distratti, divise e blindati, tra ministri cialtroni e dottori assassini, su di un marmo qualunque e lontani gli amici. Mi avevano detto è soltanto un controllo, è soltanto un controllo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Chiacchierata con Gianluigi Ago questa sera su Blu Radio Veneto. Stiamo imparando a conoscere le sue canzoni, anche il suo disco Verso le barricate del futuro. Maurizio. Qua non ci sono barricate, vai via proprio. Sì, no, qui. Proprio diretto all'ostacolo. No, tra l'altro, questo non è un testo mio. Pugno, cioè, sullo stomaco. Questo è un testo che io ho letto di un mio amico di Sarzana che si chiama Giorgio Nardi. E l'ho letto e gli ho detto: ma senti, ti dispiace se sono musicano? Perché è bello, perché parla di un tema attuale, perché certo. Tra l'altro era attuale nel momento in cui è stato scritto. L'ho un po', diciamo, adattato alla musica come medica, così, e ne è uscita fuori questa canzone che parla di un problema che purtroppo è successo molte volte con Aldrovandi, con Cucchi, e quindi soprattutto in quel momento lì, sull'onda dell'emozione, mi è sembrato logico, cioè, raccontare questa storia. E musicalmente però è un po' più complesso, un po' più articolato, sì, hai colorato con determinati suoni. Sì, perché avevo in testa proprio, diciamo, un tipo di arrangiamento, e mi sono rivolto a un bravissimo artista che si chiama, della nostra zona, che si chiama Pino Nastasi, che fra l'altro ha suonato del prog, ha collaborato con i Latte e Miele, con le Orme. Grande gruppo i Latte e Miele, uno chiama il prog. Con le Orme, queste cose qui. E quindi ho chiesto a lui di farmi la tastiera e il basso. E poi per il resto... Tu hai detto, hai citato il prog. Adesso, pensandoci qualcosina di prog, cioè, non dico... qualche flash, qualche momento, sì, anche magari... se un pezzo gucciniano come inventive. Sì, sì, sì, però diciamo. Il prog magari si sente anche un po' nella tastiera, nel modo di suonare, sì, perché lui viene da quelle esperienze lì. Beh, Latte e Miele è un gruppo molto interessante, che è stato scoperto dai giapponesi, lo sai, che tutti i grandi dischi di prog italiano sono tutti stampati in Giappone. Questo Pino Nastasi, assieme ai Latte e Miele, ha fatto dei tour in Corea, in Giappone. Dove... Passio secondo Matteo, sì, Latte e Miele. Certo, dove mi racconta che lì sono... osannati, sì, famosissimi, come fossero dei divi, che qui, mentre qui magari li conoscono in pochi. Mi diceva Aldo Tagliapietra, che è stato qualche tempo fa, che ha suonato dal vivo qui da noi, ha detto che quando andava in tournée con le Orme nei paesi orientali, in Giappone, assolutamente incredibile l'entusiasmo dei giapponesi. Ed è un peccato che magari qui, tranne quelli proprio del settore, anche loro siano un po' poco conosciuti. Diciamo. Ma Gianluigi, c'è un piccolo ritorno, sai? Sì, sì, in questo momento al momento sì. Bene. Adesso facciamo un pezzo dal vivo, un ritorno qua in studio, dal vivo 21 e 36. Che cosa, Gianluigi? Allora, prima di buttarci giù del tutto, farei un pezzo intimista subito, bene. Brucio subito, bene. Che si intitola Contrattempo. La storia è molto particolare. Quando due persone di età diverse si incontrano e stanno insieme per tanti anni, è bello, però vanno incontro magari a... contro le convenzioni, e soprattutto se c'è la presa di coscienza del fatto che il tratto di cammino sarà inevitabilmente breve rispetto ad altri della stessa età. E quindi quei pochi anni che, diciamo, che si hanno insieme ti fanno pensare a questo diciamo, scherzo del tempo, in un certo senso, però anche del fatto che a volte l'amore riesce a vincere anche quello che il tempo vorrebbe regolato secondo certi schemi biologici, certo, diciamo, certo. Non so come dire. Certo, certo. E quindi questa storia si dà contrattempo, che è quello che poi arriverà inevitabilmente a spezzare questa storia. Allora, un attimo solo. Perdonateci. Prova adesso. Proviamo, scusate. Ok, vai. Anche un po' più E se mi cercherai, tu chiama forte, anche se io e te siamo razionali e sappiamo che per noi gli altri animali il tempo non prevede che differenti frazioni temporali in cui però noi ci siamo incontrati beffandolo per bene e lui se lo ricorda certamente e non fa sconti e tu lo sai perché, perché non ci vuol bene. Così noi navighiamo contro vento, quasi le nostre fossero altre vite, ma nelle mie valigie io cresco male, un contrattempo che a qualche porto mi farà sbarcare, un ultimo saluto da lontano, un bacio con la mano per darti ancora vento. E scusa se ogni tanto io ci penso nel vaniloquio di qualche canzone, sfuggendo alla concreta meraviglia del nostro sogno, della nostra illusione. Convenzioni da noi capovolte fanno ombre corte sul nostro cammino e ti volti e guardi se ti son vicino. Ad ogni passo, ma un giorno sarà una corsa contro il vento o uno spiraglio tra la tua stanza e il tempo a rinnovar l'incanto. Starai in silenzio ferma ad ascoltare l'eco di questi nostri pochi anni, sarà il ricordo lieve come dita tra i tuoi capelli bianchi. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un testo molto bello, incorniciato da una parte musicale da folk singer, poi c'era la tastiera che dava un riscontro leggermente romantico alla faccenda musicale. Cosa dici, Gianluca? Qui scatta... sì, no, è così, ma così mi è balenata in mente, così l'ho riproposta, diciamo. Qui scattava Springsteen. Sì, musicalmente sì, forse sì, l'armonica e certe cose, sì, è vero. E tu sei quelle ballate di Springsteen di ferro oppure no? Springsteen di ferro, l'ho visto ventine di concerti dagli anni 80. E anche di Dylan ho visto tanti concerti. Cosa ne pensi che Dylan, quando fa un concerto, almeno recentemente, sale sul palco e praticamente distrugge totalmente tutti i pezzi rifacendoli ex novo? È una cosa che ha sempre fatto, ma secondo me lo fa perché lui ha sempre avuto la paura di essere cristallizzato. Lui diceva di essere trafitto come una farfalla ed essere catalogato in un certo modo. Allora tante volte lui i pezzi li stravolge, quindi uno dice ma che canzone è? Dopo magari la seconda strofa si accorge che è Blowing the Wind, magari, famosissima. È una cosa che certe volte ho sentito anche De Gregori fare delle cose del genere, non a caso è un dilaniano, cioè cambiare le canzoni, magari lasciando anche l'asciutto in bocca a chi si aspetta il pezzo come nel disco. Sì, però nessuno ha lasciato l'asciutto in bocca quando Jimmy ha ripreso Only on the Watch Tower. Ah, vabbè, grande, l'ha ripreso, grande, ma l'ha rifatta completamente. L'ha rifatta completamente, gli ha dato una veste rock completa. Ha fatto un pezzo suo. Infatti, è scritto sì. Dylan, ma come può essere scritto Jimi Hendrix? L'ha rifatto completamente on the Watch Tower. Tutti ricordano, ma chi se la ricorda la versione di Dylan? Pochissimo. Tutti ricordano, appunto. quando uno va sulla, dalla Torre di Guardia è una cosa, cosa che ti sconvolge. Certo. Allora, ritorniamo a questo pezzo che era molto bello, un testo molto significativo, non il solito testo però, vedi, così smielato, canzone d'amore, no, una canzone d'amore di un certo effetto, messa in determinata maniera. Sì, la paura di certe cose e anche il rischio, forse inevitabile, forse anche qui, è di cadere un po' in una retorica, esattamente, diciamo. Non sei caduto nella retorica, assolutamente no, però le cose che si sentono in questi casi forse possono essere anche, diciamo, lette come retoriche, però perché i sentimenti più profondi a volte rischiano appunto di cadere nello smielato. Così ho cercato di starci, di stare, diciamo, al limite di questa quindi cosa. Il vizio del pensiero non è un vizio, assolutamente. Sì, no, il vizio del pensiero nel senso di chi ancora in un mondo in cui non pensa più ma subisce con la televisione, queste cose qua, con l'omologazione totale, c'è ancora gente che ha questo vizio, in senso ironico, di voler continuare nonostante tutto a pensare con la propria testa, a ragionare. Questo è il nome dell'associazione culturale, certo, di cui sono presidente dal 2009, di Spezia, che ho fondato, che ho creato praticamente assieme però a amici di tutta Italia. E ha preso questo nome proprio, che poi è anche il titolo della lezione spettacolo su, sì, Gaber, perché mi è venuto in mente proprio loro, che nonostante le cose che avevano intorno hanno voluto continuare a ragionare, a pensare sulle cose. Ma è bello dire il vizio del pensiero, cioè vuol dire che bisogna sempre cercare di andare oltre, di costruire, sì, di dare il contributo alle cose. Sì, sì, questo è il senso di volere, di dovere, perché oggi il mondo è fatto di gente che, cioè, secondo me c'è stata una mutazione antropologica, cioè c'è stato un livellamento verso il basso. Pasolini già l'aveva prefigurato questo, certo, un'omologazione verso molti anni fa, esatto, già l'aveva prefigurato, e quindi ci siamo arrivati, però c'è ancora gente che ha voglia di pensare, di ragionare, di non di prendere per buono tutto quello che viene raccontato dalla televisione, dai mass media, dai politici, eccetera eccetera. Un altro cantautore che amavo particolarmente, che ho sempre amato, era Mauro Pelosi, te lo ricordi? Mauro Pelosi, sì. Non lo conosco tantissimo, però al mercato degli uomini piccoli, degli, è un, sì, grande piccoli, disco di Mauro Pelosi. Anche lui era un cantautore contro, quando è stato la Polydor ha voluto fare incidere un disco assolutamente non da Pelosi, lui è sparito perché non era in sintonia. Sì. Aveva fatto due cose meravigliose all'inizio di carriera. Il mercato degli uomini piccoli era una cosa meravigliosa, secondo me. E questo è un discorso che, cioè, e oggi secondo me è ancora peggio. Cioè io, c'è la pressione. L'altra, dici, volta presentando, noi a Spezia abbiamo fatto da poco una prima rassegna della canzone d'autore, nuova e storica canzone d'autore, che fra l'altro vorrei citare l'associazione che l'ha diciamo organizzata, l'associazione Aspettando Godot di Sanremo, presieduta da Pino Calautti. Benissimo. Che si è posta proprio il problema. Oggi come oggi ci sono tanti premi della rassegna d'autore, però c'è sempre in mezzo un po' di mischiamento col pop, magari si tende a chiamare il nome un po' di richiamo, e vengono invece cantautori che sono trascurati. Per esempio, noi in questa rassegna abbiamo voluto dare un premio, a Milcare Rambaldi, proprio il mitico fondatore del Premio Tenco, certo, a autori come Renzo Zenobi. Fermiamoci un secondo, Silvia di Renzo Zenobi, un disco meraviglioso, che qui possediamo la copia in vinile, una cosa rarissima, sì, qui in radio, è un disco meraviglioso. Renzo Zenobi è un grande musicista, fra l'altro non tutti sanno che nel disco Rimmel e anche nel disco, certo, Alice di De Gregori lui ha suonato le chitarre, il piano, certo, e quindi è un grande musicista, è un grande artista, ci ha confidato che fra poco uscirà un suo nuovo album, che è un grande piacere di sentirlo, certo, perché è un artista con una musica molto intimista, così, ma veramente, veramente bravo. Tu hai suonato con Zenobi, cioè c'era la signora con Zenobi, e c'era Lolli. C'era Claudio Lolli, c'era Tito Schipa Junior e Claudio Rocchi. Fermiamoci un secondo su Tito Schipa Junior. Tito Schipa Junior aveva fatto un disco tanti anni fa dedicato a Dylan. Sì, Dylaniato. Esattamente, ce l'avete, bravissimo. Dylaniato. Ce l'hai in macchina. Ce l'hai in macchina. Io mi devo ancora scusare con Tito Schipa Junior, perché sul palco avevo intenzione di dire il più grande traduttore di Dylan, e ho detto il più grande traditore di Dylan, anziché traduttore. E dobbiamo ricordare che il produttore, chi ha ristampato il disco di Tito Schipa Junior è stato Vanuccio Zanella, che è nostro amico. Di queste zone, non mi sembra. Sì, viene Zanella spesso e volentieri a trovarsi. Certo, un grande intenditore di musica. Ha ristampato il disco di Tito Schipa Junior. Tito Schipa ha fatto poi Orfeo 9, che, esatto, è stata la prima opera rock italiana. Viene da una tradizione musicale, il padre grande tenore Tito Schipa. Quindi, chiaramente. A me piace molto Tito Schipa, e anche a Spezia non è assolutamente deluso. Però anche lui è un po' out, un po' fuori. È rimasto fuori. Io Mi confermano di sì. Mi ha confidato una cosa, me la dico qui senza fare nomi, che una grande, diciamo, discografica che abbiamo visto anche sfatto, cioè non faccio nomi, ma sì, la Sony praticamente. E una volta, quando lui l'ha già conosciuto, ma parliamo di tanti anni fa, quindi è andata in prescrizione questa cosa, e lui ha presentato dei dischi e lei gli ha detto... no, non lo pubblico questo disco perché dopo 2 o 3 minuti comincia a farmi pensare e allora non mi va. Ma una cosa di questo genere è successa a Leonard Cohen. Quando Leonard Cohen incise l'album dove c'era Alleluia, il manager della CBS americana ha detto no, lo pubblichiamo solo in Canada perché avrà poco successo. Ha venduto 6 milioni di copie. Leonard Cohen un altro. Appunto, questo non vuol dire qui arriviamo nell'Olimpo. Esattamente. E poi Alleluia è stata riproposta, Jeff Buckley, è stata rimoderna, ha rivissuto un'altra vita praticamente. Ritorniamo a Gianluigi. Adesso suoniamo un altro pezzo. Sì, suoniamo un altro pezzo. Che cosa, Gianluigi? Allora, adesso suonerei proprio, visto che abbiamo parlato di massificazione, di omologazione, farei proprio un pezzo che riguarda Pasolini. Benissimo. Penso che ho voluto dedicare a Pierpaolo Pasolini perché, come dicevo prima, Pierpaolo Pasolini aveva già prefigurato con molti anni d'anticipo e questa omologazione, questa massificazione verso il basso. E i famosi editoriali del Corriere. Sì, gli scritti corsari. Gli scritti corsari, esattamente. E io credo che oggi ci sarebbe bisogno di voci come Gaber, di voci come Pasolini, voci critiche, voci al di sopra delle parti, voci che ci fanno pensare, che ci fanno riflettere. Quindi è una canzone dedicata a Pierpaolo Pasolini, si intitola appunto La voce di Pasolini. La voce di Pasolini era sconsacrazione, era sacralità, l'impegnarsi nel vivere, la luce di chi è ciò che non sa. La voce di Pasolini era numanzia, era diversità, la polvere alla fine dei campi là, dove comincia la città. E poi le lucciole sparite, religione contadina e destrutturazione. Siamo tutti in pericolo e l'apatia masmediatica dell'omologazione. E poi disamore e la furente nostalgia, querula istanza della vita in versi orfici e incivili. E poi ci siamo noi, dietro quelle parole, noi, quella sfortunata gioventù, nelle cui teste vorticava un'idea confusa, che da allora però non ci ha lasciato più. Presunzione eroica, certezza assoluta, come il sogno di una cosa che non raggiungerai, ma comunque breccia aperta a una futura storia che non potrà non arrivare mai. E la voce di Pasolini ci parlava e risuonava già della profezia del presente in cui viviamo in queste nostre città. E l'eresia di Pasolini è qualcosa che succederà. E la voce che ci mancava, che ci è mancata, che ci mancherà. Thank you. Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo a buon punto della nostra serata insieme a Gianluigi Ago su Blu Radio Veneto in Blu Radio Sera. Maurizio. Sì, abbiamo sentito, cari ascoltatori, questo omaggio a Pasolini che veniva dal di dentro, Gianluigi, si sentiva, si vedeva, io chiaramente si vedeva anche l'espressione che davi mentre suonavi. Sì, Pasolini, come dicevo prima, ha significato tanto anche per molti della nostra generazione, certo. Anche se certe volte aveva delle idee, diciamo, discordanti da sì. Quelle dogmatiche che avevamo noi, però anche lui era uno di quelli che già vedeva lontano, lontano più di tutti noi e di quelli di cui poi, come è successo nel mio caso con Gaber, ci siamo trovati a dire aveva ragione lui. Certamente. Salutiamo e ringraziamo Alberto Prisco che ha visto lontano anche lui. Visto lo che ringrazio anch'io perché è stato forse è arrivato. Contattato e lo ringrazio tantissimo, certo. Esattamente, che è stato l'artefice di questo nostro incontro stasera. E tu hai avuto la conoscenza anche con Claudio Lolli. Io l'ho visto recentemente, Claudio Lolli, tu l'hai ospitato a questo omaggio al cantautorale di qualche giorno. Sì, e Claudio Lolli, anche lui, non l'ho citato prima, l'ho detto volutamente perché volevo parlare più dettagliatamente. Claudio Lolli è stato un altro di quelli che per una certa parte della mia generazione ci ha accompagnato per tanto tempo. Ed è stato oltretutto uno di quei cantautori che per coerenza, per un certo modo di fare musica, si è sempre tenuto, è sempre stato un po' emarginato. Certo. Molti non è conosciuto, secondo me, come dovrebbe anche a livello di altri cantautori. Certo, raccontava, tu lo sai sicuramente, ma i nostri ascoltatori non lo so se lo sanno, che quando lui incise, incideva per la EMI, grande successo l'ha visto con la EMI, poi è andato all'ultima spiaggia, una piccolissima casa discografica, è stata un tentativo, una provocazione, l'ultima spiaggia poi è crollata e defunta, e allora il buon Guccini l'ha richiamato alla EMI. Però è stato coraggioso, è andato all'ultima spiaggia quando aveva il grande successo, che ho visto il singolo di Felici, dato prima in testa alle classifiche, ha smosso anche il cantautorato, cioè la gente che comprava il pop praticamente. Certo, e questo è il suo discorso, cioè lui non ha mai seguito logiche di mercato. Lui ha sempre fatto le cose che si sentiva di fare, senza preoccuparsi se questo poteva avere un ritorno o meno, ecco, è questo che mi piace nei cantautori, la loro coerenza. È molto coerente lui al 100%. Ecco, la loro coerenza, cioè non vendersi, anche se è una parola eccessiva, cioè però non piegarsi alle esigenze dei discografici. Certo, non tutti possono permettersi di farlo. Non so se sei d'accordo, Gianluigi, su questo. Secondo me, nonostante tutto, anche De Gregori non si è mai piegato. Sei d'accordo? Sì, certo. Venditti anche lui. Si è piegato. Famosa pena no, sfera. No, De Gregori è un altro dei miei adorati, diciamo. Sì, anche lui, perché poi appunto non... Io ho detto senza preoccuparsi del successo, poi il successo può esserci o può non esserci, l'importante è che uno sia coerente, se poi c'è successo e una maggiore divulgazione, diciamo, della propria opera, certo. È meglio senz'altro. Il discorso di Venditti è un episodio storico che molti lo sanno, c'è un famoso pezzo di Venditti da Lili, si chiama Penna e Sfera, dedicato a Enzo Caffarelli. Enzo Caffarelli era redattore di Ciao 2001 e quel giorno ha criticato il buon Venditti e lui si è... Vendicato. È vendicato, dopo chiaramente le cose si sono sistemate, però questo Penna Sfera è una vendetta a fronte di Enzo Caffarelli, che ha detto no, non sono d'accordo su quello che stai facendo. Che secondo me comunque Venditti non è che si sia venduto, ha solamente esaurito la vena. Hai ragione, forse, non ci vedo cattiveria in questa cosa, nel suo cambiamento. Io non ho mai seguito tanto Venditti, a parte il periodo del Full Studio, poi non... cioè è bravo, però non è che a me, cioè, sia uno dei miei cantautori preferiti. Però io ricordo L'Orso Bruno di Venditti, era meraviglioso. Hai copiato da Elton John? Può darsi che i primissimi dischi sì, mi piaceva, dove c'erano Piazzale degli Eroi, dove c'erano i primi quattro album erano molto Attila e la Stella, sì, mi molto sembra interessanti. Sì, erano interessanti. Poi un po', ma come giustamente ha detto Sergio, no, si è un po' adagiato forse sul pop, tra virgolette. Certo, sì, quello sono d'accordo. Mentre Lolli è sempre rimasto tale. Lolli è sempre rimasto tale e questo secondo me gli va dato grande merito. Sì, sono d'accordo. Perché un cantautore che fa delle canzoni come lui, con una poesia, una grandissima poesia, E, tanto è vero che ha collaborato anche con poeti come Gianni D'Elia, che certo, è appunto lo studio di Pasolini, con cui noi fra l'altro, di cui noi fra l'altro gestiamo il sito, sì, ufficiale di questo poeta. Lo ripetiamo questo. Di questo poeta, sì, che i suoi testi sono, sono, anche leggendoli, sono veramente dei testi molto interessanti, molto profondi. Io l'ho visto recentemente allo spettacolo Lolli, però sì, è molto serio, ma sembra molto serio, ma è molto anche ironico. Sì, quando molto parla ironico. È molto ironico, io non lo conoscevo, sì, così. Sì, dice sempre sono il cantatore triste, esattamente, adesso, poi magari non so, fa una serie di canzoni tristissime e poi dice, beh, adesso abbiamo finito quelle allegre. È vero. Sì, è molto autironico, non si direbbe, non esatto, si perché direbbe. Uno pensa a questo cliché del cantatore triste, malinconico, invece è molto autironico. Esattamente. Sì, sì. Tu sei ironico quando sei sul palcoscenico? Non me lo pongo il problema, cioè io più che altro mi immedesimo, anche perché poi sostanzialmente sono una persona timida di natura. Quindi, stasera non sembra, però dai, sì, tutta no, la carica. Perché se mi fai parlare delle cose che mi interessano, allora vado a ruota libera. Però quindi sul palcoscenico io mi concentro su quello che canto e basta, diciamo. Ecco, ci concentriamo anche sui pezzi, sugli spettacoli che hai fatto, che devi fare. Ne puoi citare? Allora, io ne citerei uno in particolare perché si svolgerà proprio in questa zona, sì, a Cadoneghe, che è qui vicino, e sarà il 19 di maggio, che è un sabato. Allora, è stato organizzato dal comune di Cadoneghe assieme alla professoressa Silvia Bastianello, che è qui con noi, una docente come me, che è anche un'autrice di teatro, molto brava, ed è appunto la lezione spettacolo sul teatro canzone di Gabriele Polini. Che cos'è la lezione spettacolo? Il nome magari lezione può impaurire. È qualcosa che noi abbiamo creato sia per l'università, per le scuole superiori, ma anche per auditorium, teatri, e per far capire l'importanza che ha avuto il teatro canzone quei 30 anni e oltre di spettacoli di Gaber, e che dividendola anche quella in temi, in temi da quelli più l'io, la coppia, il mercato, il potere, anche lì, così, però analizzando soprattutto rispetto a altre letture di altre lezioni che girano del genere, e concentrandoci soprattutto sui riferimenti che hanno loro alle correnti filosofiche, sociologiche, letterarie o di costume in generale dell'epoca in cui i vari spettacoli si collocavano. Adesso mi viene in mente, non so, Far finta di essere sani, che si ricollega a un periodo dell'antipsichiatria, sì, di Lange, e poi magari facciamo molto riferimento alla scuola di Francoforte, d'Adorno, e facciamo diciamo dei paralleli fra le cose, per esempio, scritte da Adorno, scritto da Pasolini, scritte da Lange, con quello che si ritrova nelle loro canzoni, perché loro erano eccezionali nel cogliere quello che girava nell'aria, nel mondo culturale del momento, e a trasporlo in canzoni e saperlo dire in maniera semplice ma efficace. È stato difficile un lavoro di questo genere? È stato un lavoro di ricerca, soprattutto di ricerca, perché poi è integrato anche da interviste fatte, da articoli scritti su questi argomenti, e poi andare anche a trovare, per esempio, noi ci siamo accorti facendo questo lavoro che molte delle canzoni di Gabriele Luporini sono prese, ma non come plagio, pari dalle opere di Céline, del Viaggio al termine della notte, e quindi sono proprio dei rifacimenti, come canzoni come La festa, un rifacimento di un pezzo che c'è nel Viaggio al termine della notte, in cui lui parla della come si svolge i tempi della guerra, che invece di questa gente che in mezzo al disastro continua a festeggiare, andare in una parca, diciamo quasi ignara, ormai inconsapevole di quello che gli succede intorno. Benissimo, allora adesso facciamo sentire un pezzo da disco, mi pare ci sia ancora uno. Cosa dici? Sì, sì, sì, sì, abbiamo sentito due canzoni dal disco di Gianluigi Ago, la terza che tu, Maurizio, hai scelto è la traccia numero 4, che si intitola La semantica del tempo. Andiamo a sentirla, certo, e poi magari ne parliamo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Del linguaggio di cui volevamo parlare ci han coinvolto troppe volte, disgregato e fatto male. La semantica, tra l'altro, assomiglia un po' a un coltello tra le mani di un bambino. Non ti puoi fidare mai, e poi perdi la memoria e diventa anch'essa storia. Le parole in cui credevi, freddi archetti infedeli. La semantica incoerente può far male, l'ho già detto, ma per spiegarlo ci vuol tempo. Io quasi non ne ho più. E allora che fare? Ancora pensare, ma se il tempo che mi manca tu senz'altro ne hai di più, potrai continuare tu per me. Frasi e strofe di canzoni, utopie e sogni perduti, viaggi veri e immaginati, anni mitici affollati. Poi ci siamo ritrovati, piano piano ad invecchiare proprio dentro le città che noi volevamo bruciare, ed il tempo ci ha imbrogliato, fuori sincrono e veloce, e mi prende per la gola e mi chiama col mio nome. Ed a volte mi domando se davvero tutto ha un senso, ci vorrebbe un po' più tempo, ma io quasi non ne ho più. E allora che fare? Ancora sognare, ma se il tempo che ci manca tu comunque ne hai di più, potrai continuare tu anche per me, per me, anche per me. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. La semantica del tempo e la traccia numero 4 del disco di Gianluigi Ago, Verso le barricate del futuro. Maurizio, io parlo musicalmente e poi mi spieghi il testo. Musicalmente è un pezzo abbastanza accattivante. Io l'ho scelto come pezzo guida dell'album, secondo noi, per un mese è andato in onda nel nostro speciale particolare, e dà proprio una bella sensazione musicale. Adesso mi dici il testo, che chiaramente il testo è abbastanza interessante. Sì, già il titolo è un po' particolare, cioè la semantica del tempo. Cioè, il tempo passa, le cose cambiano, e spesso cambia anche la semantica, cioè il significato delle parole, cioè parole in cui noi credevamo, magari appunto come accennavo prima, periodi abbastanza dogmatici che abbiamo passato, almeno che io ho passato anche come militante in certi anni, e che sembravano una cosa, pian piano si svuotano o cambiano il loro significato. Si rilascia un po' il discorso di quello che dicevo prima, verso le barricate del futuro, cioè delle cose che cambiano e che quindi ti fanno pensare che forse tutto non ha avuto un senso, però poi in fondo, come nelle barricate del futuro, c'è sempre una speranza, c'è la speranza che dove siamo arrivati noi, forse, probabilmente, domani, ci possa essere qualcun altro più giovane che continui lì dove abbiamo interrotto noi. Quindi la semantica del tempo, nel senso che il tempo distrugge tante cose e anche a volte i significati, i valori, o perlomeno quello che significavano certe parole per noi, ce le fanno vedere da un'ottica diversa. Abbiamo parlato prima dell'evento di Cadone, ma c'è qualche altro evento praticamente da parte tua, oltre a quello di Cadone del 19 maggio? Qualche altro concerto che tu farai? Sì, prossimamente faremo un concerto a Spezia, al Teatro Civico della Spezia, l'8 maggio credo che sia, che si titola Note Spezzate, un concerto che fanno periodicamente. Note Spezzate è dedicato praticamente ai cantautori scomparsi, e noi in quella sede eseguiremo un pezzo che stiamo preparando adesso, perché non l'abbiamo mai fatto, La Festa, proprio di Gaber, di Gaber Luporini, proprio da quel polli d'allevamento che tu citavi, che disco molto complesso, spettacolo complesso, sconvolgente, il primo spettacolo in cui Gaber Luporini passano dal noi all'io, all'io, perché c'è uno scollamento con quella, diciamo, con quella comunità che loro sentivano, e c'è un attacco diretto. Mi ricordo che quegli spettacoli nel 78 l'ho visto, e quegli spettacoli, quando lui cantava canzoni come Quando è moda e moda, volavano oggetti, c'era gente che lo chiamava traditore, contestazione, perché, e non capivano molti che forse quella sua rabbia non era un attacco, ma era una delusione di chi stava distruggendo qualcosa che invece per loro aveva avuto grande valore. Hai parlato di cantautori che se ne sono andati, tutti italiani oppure qualche straniero anche? Beh, gli stranieri, io ho citato, io mi viene in mente Philox. Ah, Philox è stato un grande cantautore americano, anche lui che viene dal folk. Certo. Tante cose. Certo, sono tutti cantautori che hanno segnato bene o male quel periodo che ci ha portato poi anche in un certo senso alla canzone d'autore, certo. Perché i filoni sono stati chiaramente quello della francese, di Brassens, di Brel, certo. E poi quello americano. Diciamo tutti un po'. E vorrei ricordare anche che quest'anno a luglio sono 100 anni dalla nascita di Woody Guthrie. È verissimo. Il padre, diciamo, di tutto. Il padre di tutto. I maligni dicono che Dylan andasse all'ospedale per carpire i significati di tutta la... Certo. Oppure altri maligni dicono che andasse a rovistare nelle immondizie per trovare questa famosa biografia di Dylan. Sì. Mi è venuto Philox perché c'è quell'episodio famoso che lui ha buttato fuori Philox dalla macchina, lo sai? Sì, adesso non ce l'ho ben presente, mi sembra di averlo letto. E che Philox era un musicista quotato all'epoca. Di là aveva iniziato con Philox, siamo in quel periodo. Ritorniamo a Gianluigi Ago. Cosa fai sentire adesso? Allora, diciamo che i pezzi del mio disco da fare dal vivo, no, lo passiamo. Vuoi sentire un pezzo da disco? No, intanto facciamo sentire un pezzo live e dopo pezzo vediamo. Live, ma facciamo un pezzo, sì, a tuo classico, diciamo. Pezzo classico. Io farei un Se ti tagliassero a pezzetti di D'André. Sì, sicuramente. Devo alzarmi in piedi allora. No, pure seduto. Ok. E Se ti tagliassero a pezzetti è una canzone anche particolare, che mi piace particolarmente perché ha una doppia lettura, no? Sì. Sembra una canzone dedicata a una donna, lì per lì apparentemente, però poi il significato più profondo, almeno questo l'ha detto De André, è quello di una canzone che parla di qualcosa di importante che a volte viene distrutto, e che è la libertà. Certo. Dunque, e quindi è una canzone che ritengo importante sia per la bellezza, ovviamente, per il testo, per tutto, ma anche per questo tipo di lettura. Proviamo a farla, Se ti tagliassero a pezzetti, il vento lì raccoglierebbe, il regno dei ragni cucirebbe la pelle, e la luna tesserebbe i capelli e il viso, e il polline di Dio il sorriso. T'ho trovata lungo il fiume, ballavi una soglia di fiori, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso rosso, t'ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla, rosa di rame, mai ballato così a lungo, lungo il filo della notte sulle pietre del giorno. Io suonatore di chitarra, io suonatore di mandolino, alla fine siamo caduti sopra il fieno. persa per molto, persa per poco, presa sul serio, presa per gioco. Non c'è stato molto da dire o da pensare. La fortuna sorrideva come uno stagno a primavera, spettinata da tutti i venti della sera. E adesso aspetterò domani per avere nostalgia. Signora libertà, signorina anarchia, così preziosa come il vino, così gratis come la tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fumo. I giornali in una mano e nell'altra il tuo destino, camminavi fianco a fianco al tuo assassino. Ma se ti tagliassero a pezzetti, il vento li raccoglierebbe e il regno dei ragni cucirebbe la pelle. E la luna tesserebbe i capelli e il viso, e il polline di Dio il sorriso. Siamo a buon punto, Maurizio, della nostra serata con Gianluigi Ago, prego. E gli ascoltatori non lo sanno, ma Gianluigi ha 2, 4, 6 tasti fisarmonica a bocca praticamente, e poi la Claudia ha saltato dall'Oveto al Casun, come si chiama? Si chiama Caon, uno strumento sudamericano. Esattamente, quindi hai fatto le percussioni praticamente. Sì. Quindi una versione... proprio da folk singer hai fatto di questo, sì, pezzo. Sì, ci ho aggiunto classico. L'armonica, esatto. Che in realtà non esiste. Nel disco originale, ma la sentivo così, diciamo, sta canzone. È giusto che sia così. Nelle mie corde, fatta in questo modo. Parlare di De André è difficile, parlare di Gaber è difficile, ma è positivo in ogni caso, perché si dà tutto praticamente. Si dà la sensazione che si dà per fare ricevere anche gli altri che ti stanno ascoltando, gli ascoltatori stasera e chi ti ascolta in concerto praticamente. Sì. L'idea è questa, deve essere sempre questa l'idea. Suonare per gli altri, anche non solo sì, per suonare te. Per gli altri, suonare per trasmettere qualcosa agli altri. Chiaramente devi sentirlo te, devi cercare di farlo sentire anche agli altri. Esattamente, questo è fondamentale. Allora adesso abbiamo il tempo di far sentire un pezzo da disco che non abbiamo fatto sentire, sì, mi pare, vero? Che è la title track. Title track. Si dice così, la title, certo, track. Title track. Esattamente. Sì. Adesso le barricate. Ti do il tempo per... Giusto, la traccia 2, la traccia 2. Non trovo, scusami. Okay. Il numero, andiamo subito a sentirla allora. Thank you. siamo l'algebrico ripetersi del tempo, confusi tra la noia e la pazzia, irrisolte proiezioni di bisogni che non sanno nutrirsi di poesia, la parte oscura della fantasia, volubili prodotti della mente, le fatiscenti forme di un fluire meccanico che prefigura il niente. Siamo il preludio a un futuro inconsistente. Amiamo troppo ma in fondo troppo poco. Siamo iperboli alterate del carbonio. Dimentichiamo troppo spesso il gioco. Siamo l'essenza della solitudine, un labirinto di silenzi e mura, l'immagine riflessa e capovolta di una realtà che ormai ci fa paura. Eppure ci sono ancora parole nascoste dentro la nostra afasia, parole che si accendono come fuochi lungo i sentieri eterni di utopia. E questo tempo che ci lascia indietro nei suoi piani inclinati oltre ogni muro, ancora lotte e sogni, e se riporta dietro verso le barricate del futuro, e un po' dei nostri sogni se li porterà dietro sopra le barricate del futuro. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, verso le barricate del futuro, il titolo dell'ultimo disco di Gianluigi Ago, ed era anche la canzone che abbiamo appena sentito, la traccia 2 del disco. Maurizio. Sì, la title track praticamente. Con Gianluigi parlavamo John Wesley Harding, cosa possiamo dire questo? Sì, sì. Molto dinaliano, come sì, pezzo. Sì, è uscito fuori il Dylan che ho masticato, diciamo, per tanti anni, che ho seguito, e certe cose te le porti dentro, inevitabilmente ti vengono fuori perché sono nel tuo DNA, sì, certo. Diciamo. Sai perché ho citato John Wesley Harding? Al di là che dove il contenuto All Along the, sì, Watch Tower, perché secondo me è un disco molto dinaliano, cioè molto chitarra e basta, molto, sì, scheletrico. Sì. È un periodo di mezzo forse della sua grandissima attività, sì, musicale. Però è un disco veramente bello. Molto bello, molto bello, molto significativo. Ok, abbiamo sentito questa title track e adesso facciamo un omaggio a me e ad Alberto, visto che l'abbiamo visto recentemente a Padova, Claudio Lolli. Riprendi un classico di Lolli nella versione di Gianluigi Ago, chiaramente. Sì, questo è un pezzo mitico per molti di noi, perché è un po', diciamo, a Semana di Francia, un po' il simbolo di un'intera generazione, questi zingari felici. Poco tempo fa mi è capitato di sentire uno su un palco che l'ha fatta, ha detto: quella canzone è dedicata ai Rom, e io mi sono un po' così, perché ho detto: no, non è una canzone sui Rom, è una canzone sui zingari felici, sono quelli del 77, certo, quella generazione che fa del 77, l'ho fatto nell'università occupata di Roma, per esempio, certo, il febbraio 77, e quindi è una canzone che parla proprio di questi giovani, delle loro generazioni. Sai, una cosa che noi, cioè, siamo stati non delusi, ci mancava Michel, lui non l'ha fatta Michel. Ormai lui ha un repertorio preciso e si muove su quello. Esattamente, non l'hanno fatta. Okay. Allora la provo a fare chiedendo scusa a Claudio. È vero che dalle finestre non riusciamo a vedere la luce, perché la notte vince sempre sul giorno e la notte sangue non ne produce. È vero che la nostra aria diventa sempre più ragazzina e si fa correre dietro il lungo le strade senza uscita. È vero che non riusciamo più a parlare. E che parliamo sempre troppo. E siamo noi a far ricca la terra, noi, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'alto piano. Noi penetriamo foreste, coltiviamo savane, e le nostre braccia arrivano ogni giorno più lontane. Da noi vengono i tesori alla terra carpiti, con che poi tutti gli altri restano favoriti. E siamo noi, noi, a far bella la luna, noi, con la nostra vita coperta di stracci e di sassi di vetro. Quella vita che gli altri ci respingono indietro, come un insulto, come un ragno nella stanza. Ma riprendiamola in mano, riprendiamola intera, riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza. È vero che non ci capiamo, che non parliamo mai in due la stessa lingua, e abbiamo paura del buio e anche della luce. È vero che abbiamo tanto da fare che non facciamo mai niente. È vero che spesso la strada ci sembra un inferno, una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri, odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici. Ma ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro, far l'amore, rotolarsi per terra. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. Ma ho visto anche degli zingari felici corressi dietro, far l'amore e rotolarsi per terra. Ho visto anche degli zingari felici ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. Bravissimi, hai dato lo spirito originario di Ho visto, perché sì, adesso Claudio Loli la fa praticamente la recita sì, esattamente. Mancava un bel sax. Esatto, mancava però un bel sax, però dobbiamo dire che è stata riproposta, rivissuta, rivista grazie a Carboni, che ha dato sì, ha fatto conoscere la gente che non la conosceva prima, certo. È una cosa molto positiva. è un classico della nostra generazione che rimarrà sempre tale. Certo, certo. C'è poco da dire. Adesso abbiamo circa 10 minuti. Io lo proporrei di fare sentire l'ultimo pezzo da disco, certo, che si chiama La ballata per Wanda. Sì, perché... è una storia un po' particolare. Noi abbiamo conosciuto una simpatica donna di ben 86 anni che si chiama Wanda Bianchi, una partigiana che ha operato nella zona dell'Appennino toscano. È una donna semplicissima, una donna umile che ci ha raccontato la sua storia, che ci ha sorpreso. Da qui è stato tratto anche un libro che si intitola Un berretto pieno di speranze, sì, e che è stato pubblicato appunto nella nostra zona da Pino Marchini e per le edizioni 5 Terre. Ed è una donna che è vissuta sempre emarginata perché il padre era considerato un sovversivo ai tempi dei fascisti, ha visto morire il fratello per le botte dei fascisti, che faceva la staffetta partigiana, e praticamente la sua storia è poi raccontata in questa canzone. Ma quello che ci ha colpito è la sua umanità e la sua determinazione ancora oggi, perché partigiani non esistono, gli ex partigiani, si è partigiani sempre. Lei è partigiana ancora ora, difende la Costituzione, va nelle scuole anche se non è una persona istruita, ha fatto la cuoca, ha fatto la bidella, però va nelle scuole per insegnare ai giovani che bisogna difendere la Costituzione, che è la cosa più importante che abbiamo. Ok, la sentiamo allora. Wanda è una bambina e guarda verso il monte, ma il tempo non l'ascolta, il tempo non risponde a tutti i suoi pensieri, a tutti i suoi perché, a quello che suo padre le spiega. Che cos'è? Cos'è che adesso conta? Che serve veramente per soffiar fiato e luce in questa notte buia che ormai confonde i sogni, la fame e la paura, che vede in fondo agli occhi di tutta la sua gente. E Wanda è una bambina che cerca la sua strada ed ogni giorno impara la vita che cos'è. E Wanda è una bambina, è la più brava della scuola, maestra Caterina dice devi studiare ancora, ma i soldi sono pochi e si deve lavorare, e il mondo intanto fuori continua ingiusto e uguale. Ma Wanda ormai ha capito che cosa è l'ingiustizia, e sono già tanti quelli come lei. Wanda adesso è Sonia, una ragazza che sale verso il monte, tra la legna che ha in braccio, adesso lei nasconde messaggi, cibo ed armi, frasi di libertà, tra i blocchi dei tedeschi lei passa anche se sa. sa bene che ogni giorno lei le rischia la sua vita per una libertà che forse è oltre quella salita, per un mondo nuovo fatto di pace e libertà. Per cui in tanti si muore, ma che un giorno arriverà. Ed il berretto dove lei ha cucito una stella è pieno di speranze e viaggiano con lei. E ora Wanda è una donna che ha dentro sé una storia, che non è mai finita, perché la libertà va ogni giorno difesa e a volte con fatica, perché non torni ancora il buio e poi un'altra salita. E se siamo qui con lei a parlarne e insieme a ricordarlo, noi lo dobbiamo a quelli come lei. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, 22:36, stiamo un po' sforando per tutti gli amanti dell'heavy metal e dell'hard rock. Questa sera non c'è il nostro Renato Ferro. Sì, esatto. E quindi ci permettiamo, insomma, di andare un pochino lunghi. Esattamente. Il finale è molto ballata popolare, molto folk, decisamente. Non il folk americano, il folk italiano. Folk italiano, esattamente. Sì. Allora, chiuderei con una canzone. Sì, un momento, no, facciamo sì. le comunicazioni prima, di servizio. Allora, comunicazioni di servizio. Dove si trova? Dove? Innanzitutto il tuo sito. Il mio sito si chiama gianluigiago.altervista.org e poi c'è quello dell'associazione culturale che è ilviziodelpensiero.it. Se uno vuole avvicinarsi al tuo disco, avere il disco, come deve fare? Il disco può scrivermi, ci sono, nel mio sito c'è info il vizio del pensiero a cui può richiederlo, se no lo vendiamo nei concerti. Esattamente, poi c'è una bella copertina che... La copertina rappresenta una torre di Babele da un famoso quadro, e un po' perché mi faceva venire in mente la confusione di questo tempo, il degrado di questo tempo che prelude a un crollo, sempre che poi non si riesca a lasciare qualche segno che ci porti ancora a lottare nelle barricate del futuro. Ricordiamo l'appuntamento del 19 maggio. Allora, questo maggio. È un appuntamento che ricordo volentieri perché si svolgerà qui nella zona di Padova, a Cadoneghe, organizzato dall'autrice di teatro e giornalista e fra l'altro docente come me, Silvia Bastianello, insieme al comune di Cadoneghe. Ci sarà all'auditorium Ramin, credo che si chiami, ci sarà questa lezione spettacolo sul teatro canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, un'analisi appunto sugli spettacoli con proiezioni di filmati, canzoni dal vivo, letture, interviste e quant'altro. Benissimo, grazie a Gianluigi Ago e a Claudia Bellucci che ci hanno piacevolmente fatto passare un'ora e 40. Io ringrazio tutti voi, soprattutto per avermi dato questa opportunità e soprattutto per aver fatto una bella chiacchierata con persone esperte sulla canzone d'autore in generale. E ringraziamo Sergio Bortolami in regia. Grazie. Ah, ecco, l'ultimo è Sergio Bortolami in regia, senz'altro, e Alberto Prisco. E poi vorrei appunto chiudere con una canzone che parlavamo prima, Giorgio Locascio del For Studio, e tenterò di fare, perché tanto non la faccio, una canzone sua che si chiamava Moneta di latta, e saluto tutti, grazie. Grazie a voi. Alla prossima. O dammi una moneta di latta, o dammi un sorso di vino, racconta una storia d'amore che duri fino al mattino. Io resterò ad ascoltare come se fosse la prima volta, dimenticando l'inverno e il vento che m'attendono alla porta. I miei vestiti sono accanto alla stufa e le mie scarpe sul tuo tappeto, su cui ogni passo nasconde un inganno, ogni parola nasconde un segreto. Io ho imparato ad amarti, ad aspettarti quando sei lontana, quando la notte si scioglie i capelli ed è la paura che mi chiama. Da anni ho vissuto in un circo con cui ho viaggiato nel mondo intero, dove il silenzio è servo e padrone e dove ride vestito di nero, dove la luce del sole fa camminare i treni e le navi, ma il mio pensiero è rimasto alla stanza in cui ogni tanto tu mi cercavi. Mi han detto che il paradiso è un po' come una galera, t'aggrappi alle sbarre, ti guardi alle spalle, sei perduto quando scende la sera. Io imparerò a difendermi, ad inventare parole nuove, a calzare scarpe pesanti quando fa freddo e fuori piove. O dammi una moneta di latta, o dammi un sorso di vino, racconta una storia d'amore che duri fino al mattino. Io resterò ad ascoltare come se fosse la prima volta, dimenticando l'inverno e il vento che mi attendono alla porta. Dimenticando l'inverno e il vento che m'attendono alla porta.